La discussione della tesi era fissata al 28 di novembre per Silvia e al 3 di dicembre per Anna. Le due ragazze si erano chiuse in una rigida regola di vita, si tenevano appartate dalle altre. Anna appariva stanca, rassegnata. Le compagne talvolta avrebbero voluto andare a distrarla, sicure di farle piacere. A Silvia invece non avrebbero osato accostarsi, tanto appariva accigliata e severa. Scendeva a mangiare, risaliva, talvolta senza scambiare parola, chiusa in sé. Sotto la porta della sua camera si vedeva la luce rossa della candela passare fino a notte inoltrata. Soltanto ogni giorno alle 2 usciva per andare da Belluzzi. A quell'ora, appesantita dal pasto, veniva colta da sonnolenza. La stanchezza le gravava sulle palpebre, se le stropicciava per tenersi desta. Poi, vincendosi, metteva il cappello e usciva. Le strade erano pigre di sole nell'ora pomeridiana che intiepidiva la credine del novembre. A poco la sonnolenza si dissipava, ma dolorosamente. Non ce la faccio più, la ragazza pensava. Nel vecchio portone di Belluzzi una folata d'aria gelida finiva per destarla. S'era smagrita, l'ansia la mangiava, il viso, dove s'accendevano i piccoli occhi graziosamente strabici, si mostrava piccolo e ossuto come quello di un rosicante. E però aveva acquistato un'aria più sicura che le veniva dalla certezza di essere divenuta necessaria al professore. Questo pensiero la tonificava, la rialzava dinanzi a se stessa. Un giorno alle 3, mentre stava rispondendo a certe lettere arrivate al professore, la porta s'aprì piano. La cameriera s'affacciò cauta, guardandosi intorno, e chiese a bassa voce: "C'è?" indicando con fare misterioso la porta chiusa dello studio. "No." Silvia rispose alzando appena la testa: "Non è ancora tornato." Subito la ragazza cambiò tono, si avvicinò a Silvia e disse concitata: "Signorina, venga, venga, la signora ha preso il Veronal." Sulla poltrona della sua camera, la signora Dora stava abbandonata, pallida, a occhi chiusi, e respirava faticosamente. Udendo che un'altra persona entrava insieme con la cameriera, sbarrò gli occhi e, vedendo Silvia, restò per un momento interdetta e cominciò a piagnucolare, alzando le pupille al cielo. Silvia si rivolse alla cameriera: "Quando l'ha preso? Quando?" "Adesso, proprio adesso. Vede il tubetto lì sul comodino? Sono entrata e ho visto che buttava giù qualche cosa. Ho capito di che si trattava, perché da quando è arrivata la lettera non fa che piangere. Le ho detto: 'Che fa, signora?' E lei mi ha risposto che la lasciassi, che voleva morire." Silvia prese il tubetto sul comodino. Quattro ne mancavano, soltanto quattro. Ah, restò un momento perplessa, poi irrisoluta ordinò alla cameriera: "Portami un bicchiere d'acqua calda." E, avvicinatasi alla signora Dora, le disse autoritaria: "E lei venga con me, bisogna che restituisca subito, ha capito? Subito." Quella piangeva più forte, le lacrime le colavano per la faccia dipinta. Dalla vestaglia aperta si vedeva il grosso seno alzarsi e abbassarsi in un affannoso respiro. "Mi lasci, signorina mia, mi lasci. Lei non può capire, non ce la faccio più. Voglio finirla, mi lasci morire, signorina." Ma Silvia, vincendo un'istintiva ripugnanza, l'aveva presa pel braccio grasso e bianco. "Non muore, solo quattro ne ha prese. Bisogna che restituisca, se no non farebbe che soffrire. E poi lo scandalo, mi capisce? Pensi allo scandalo, venga, le dico." La donna resisteva, e allora Silvia duramente le disse: "Presto, su, presto, vuole che rientri il professore?" A quel nome la donna si scosse, ma prese a piangere più forte. "No, no," disse, "povero Guido ha ragione, signorina, povero Guido, lei è buona, ma se muoio è meglio per me, finisco di patire." E intanto la seguiva nel bagno. Lì si fermò imbalordita nel centro della stanza, pallidissima, disse: "Mi gira la testa." E si lasciò cadere all'indietro, quasi facesse la prova di uno svenimento, ma non riuscì. Agitava le braccia, si portava la mano alla gola come se soffocasse. "Dio, Dio!" diceva con accento tragico. "Dio, fatemi morire!" E quando Silvia le mise in mano il bicchiere colmo d'acqua calda, le chiese smarrita: "Che debbo fare?" "Bere, subito!" E Silvia glielo portava alla bocca. "Si sforzi, deve rovesciare tutto quello che ha preso, capito? Che le devo dire? Si tocchi la trachea, qui, qui!" E le spingeva un dito sulla fossetta della gola. La signora Dora, ingozzata l'acqua, restò un attimo come allucinata. "Non voglio, non voglio, mi lasci morire." Allora Silvia, irritata, le spinse il bicchiere tra i denti e le impose: beva, beva, ancora, e poi tossisca. Dico, provi, si metta un dito in gola, via, via, un dito in gola. Le prese la mano, le cacciò il dito grasso in bocca a viva forza e quella vomitò. Vomitava, piangendo, storcendo gli angoli della bocca, sembrava uno di quei bambini enormi che si portano in giro per le fiere. Il viso le si arrossava per lo sforzo, ormai non si teneva più, ogni poco un nuovo fiotto le saliva alla bocca e le lacrime le avevano formato chiazze nere sul volto per la tintura degli occhi. Silvia ne provava ribrezzo e tuttavia non poteva meno di immaginare quel volto così disfatto, sormontato dal cappello con la gran piuma verde che la signora portava il giorno della conferenza. Lo specchio era incontro a loro. Forse adesso si vede. Silvia pensava, si vede così e ritorna in sé e capisce. Invece l'immagine della sua sofferenza impietosiva la donna, la quale s'accarezzava i capelli che le colavano sul viso scomposto, s'appoggiava con la testa al muro, si tergeva sulla fronte il sudore, poi si fissava con occhi gravi e tristi e mormorava: povera me, perché non mi avete lasciato morire? Che commedia, pensava Silvia, neppure morire seriamente avrebbe saputo. Forse il tubetto era già cominciato, forse ne ha mandata giù soltanto una, forse anche se la cameriera non entrava non le avrebbe ingoiate tutte. Fa la tragedia per mettere sotto gli occhi di tutti la sua sporca delusione sentimentale. Non ha vergogna della serva che domani racconterà l'accaduto a tutto il vicinato. Con un filo di voce la signora Dora chiedeva: portatemi sul letto, mi sento svenire, svengo. Di qua e di là, sorreggendola, Silvia e la cameriera l'accompagnarono. Presso al letto, la serva lasciò ogni cura a Silvia e si affrettò a tirar giù la coperta di seta e a sprimacciare il guanciale. Quando ella si fu faticosamente distesa, la coprì con un piumino. La signora Dora respirava appena, un alito. Svengo, svengo, gemeva. Chiedeva aiuto come se la morte dovesse coglierla adesso, naturalmente. Frasi spezzate dall'affanno le sfuggivano dalle labbra. Lei non sa, signorina, lei non sa. E intanto le cercava la mano. Lei è giovane, non può capire. Che vigliaccheria, che accadrà di me? Lei non sa nulla, neppure immagina, neppure. Oh, che rovina, che tragedia. Mi perdoni, lei non sa. Lei è stata tanto buona, povera signorina. Non avrei mai creduto. E improvvisamente taceva. E tratteneva il respiro come per far credere che era morta. Silvia le teneva la mano con diffidenza e frattanto osservava il grasso corpo di lei, floscio. Una vecchia, pensava, proprio una vecchia, ammassata sul letto, i ginocchi grossi, le caviglie troppo sottili, i capelli di un rosso carico, il viso impiastricciato di cipria, lacrime e bistro. La signora Dora, visto che trattenere il respiro non bastava a farla morire, riprendeva a parlare come in delirio, parole scucite, oscure. Buona lei, tanto buona, anche Guido è buono, e si interrompeva. Le lacrime le annegavano gli occhi. Povero Guido, è molto buono, ma voi non capite, lei non sa. Tante volte ripeteva questa frase per darle un significato misterioso. Lei non sa, voi state chiusi con i libri, è un egoismo il vostro, lei non conosce la passione, lei è giovane, molto giovane, forse un giorno mi capirà. Ah, che male alla testa, la bocca amara, Dio! E assaporando la saliva s'abbandonava sul letto, lamentandosi esausta. Allora Silvia fece cenno alla cameriera che tirasse le tende. Facesse buio nella camera. Al rumore che produssero gli anelli della tenda nello scorrere, la signora Dora sobbalzò, aprì gli occhi a tondo, poi subitamente rassicurata fece «Ah!» e sorrise, un sorriso angelico. «Come potete pensare che dorma? Non c'è più riposo per me!» Grosse lacrime rigavano il lucido, roseo, molle del suo viso. Piangeva silenziosamente, come per non disturbare, per fare con la sua tragedia il minimo di rumore possibile, anima eroica. Che capiscono quelle due ragazze del suo dramma? E abbassando le palpebre mormorava: chiudete, chiudete pure e andate, andate, poverelle, grazie, chiudete, accompagnando le parole con un moto della testa mite e sottomesso. Ogni poco improvvisi sospiri le sollevavano il petto gonfio. Le ragazze aspettavano impassibili. Quando, dopo alcun tempo, Silvia vide che ella non sorrideva più e anzi, dalla bocca socchiusa le usciva un respiro rumoroso e uguale, s'alzò, si mise in tasca il tubetto del Veronal e, facendo segno alla serva di uscire con lei, andò a riprendere il suo lavoro nella biblioteca. Il professore rientrò poco dopo, passò vicino a Silvia a testa bassa, quasi senza vederla, poi ritornò e le disse con un sorriso soddisfatto: «Ho preparato la lezione per domani, è tutta qui», e si batteva il dito sulla fronte. Poi le dettò gli appunti. «Piuttosto, adesso mi dica, se la sa, com'è la seconda quartina di quel sonetto di Chiaro d'Avanzati? Io son certa, messer, che voi m'amaste». Sicura, Silvia continuò: «Ed io amai voi, e del mio amor pigliaste». «Ah, vero, vero», fece egli colpito. Poi lo ripeté svelto tra i denti. Dopo, pensando ad altro, chiese: «Vogliamo farci portare una tazza di tè? Se Dora...» Ma Silvia l'interruppe: «La signora è stata poco bene, un piccolo disturbo, forse qualcosa ha mangiato a colazione». «Poco bene?» E gli occhi di lui si rivelarono dietro le lenti. «Vado subito da lei». Silvia lo richiamò: «No, no, guardi, adesso no. Già passato, già riposa, dorme». E sorrise per rasserenare le sue parole. Allora egli tornò indietro a piccoli passi, come usava, quasi in punta di piedi. «Ah, dorme», ripeté. E si capì che la sua mente già s'era volta tranquilla ad altri pensieri. «Suoniamo alla cameriera allora per avere un tè, un buon tè caldo». Camminava ripetendo di nuovo distratto quei versi: «Io son certa, messer». E poi si fermò, guardando la ragazza: «Un gioiello il sonetto, vero Custo?» «Sì, professore». Ella lo guardava muoversi, sereno nell'aria dei suoi pensieri, come in un'isola irraggiungibile dai rumori e dalle voci del mondo. Lo guardava con tenerezza, appunto per quella sua ignoranza di ogni cosa, come si guarda un bambino che è orfano e non lo sa. Quel capoverso, soprattutto, dove dice: «E nulla cosa credo riservaste ch'io non la desse in la vostra potenza». Non è vero, Custo? «Sì, professore», ella rispose dolcemente, e gli sorrise come una donna. Ma lui, che si guardava le mani, non la vide. Tornò in collegio stanca, nauseata, non poteva dimenticare quel volto della donna, quel piagnucolare infantile. Si chiuse in camera sua e, attendendo l'ora della cena, prese un libro, ma presto Anna venne a bussare. «Ah, ci sei finalmente!» esclamò, felice di trovarla. «Sono tornata da poco, che c'è? Ha telefonato Vinca chiedendo di te o di Emanuela, che andaste subito a casa sua. Tu non c'eri, Emanuela neanche, io dovevo studiare, è andata Valentina. Lui si è ferito!» «Ferito!» E Silvia pensò che quella era la giornata degli avvenimenti straordinari. «Gravemente?» «Non credo, ma non hanno ancora notizie precise. Lo ha scritto il fidanzato di Pilar. Valentina dice che Vinca è in uno stato...» Tacque, e ambedue rividero il volto consunto di Vinca, come quando venne a trovarle l'ultima volta. «La notte non riesco a dormire. Sempre m'aspetto qualche disgrazia», diceva. «E io non potrò andarci domani. Come faccio? Bisogna che ci vada Emanuela, non la lasci sola. Ti ricordi la sua esaltazione quando seppe della partenza di Luis?» «Sì, ma non bisogna esagerare, è il suo carattere». Silvia scosse la testa. «Credo che sia l'amore, invece. Sai bene, io sorrido quando odo questa parola. L'ho sempre considerato una debolezza, ma quando vedo Vinca, penso che è vero, sì, che esiste, ma appare come una forza. E quando sento parlare lei, mi accorgo di essere sola e povera. Non è così?» «Sì, è innamorata, non c'è che dire. Ma il suo amore durerà?» «Non me lo sono domandato. Ho sempre pensato che l'amore non possa servire di base nella vita. Altri valori esistono, più solidi, se non più umani». «La famiglia?» chiese Anna. «Anche la famiglia, per chi se la sente, o forse nessun sentimento può essere da solo base di vita. Forse l'essenziale è nel dare a qualcosa tutto di se stessi, no? Non una piccola parte a tante cose diverse. Vivere comunque ad alta tensione, e allora l'amore, la famiglia, il lavoro, tutto assume un identico valore». Restò un momento sopra pensiero, poi riprese. Oh, che dolore per Vinca! Non è tornata, Emanuela! No, almeno fino a poco fa. Indugiava a rientrare Emanuela. Il collegio era freddo, un gelo di cantina umida si fermava nel vecchio androne. Spesso prendeva il tè in casa di Andrea con la madre mentre lui studiava. La vecchia ricamava e le diceva: "Perché non porti un lavoro anche tu?" Ma lei sperava sempre che Andrea smettesse di studiare e venisse in sala da pranzo con loro. Una grande stanza antica, poco illuminata, piuttosto triste. Nelle pause della conversazione, mentre la vecchia ricamava, Emanuela pensava che sarebbe stato sempre così. L'orologio suonava, mettendo in casa un gran frastuono di campane, poi tutto ripiombava nel silenzio. La ragazza si consolava, pensando che a casa sua tutto sarebbe stato diverso, anche le pareti, anche i mobili, tutto chiaro e giovane. Però temeva il nuovo aspetto di Andrea, che le si era rivelato. Un Andrea familiare e casalingo, il quale la voleva elegante, sì, bella, sì, ma chiusa là dentro con sua madre ad aspettarlo, ricamando. Quando era bel tempo invece uscivano, ma non erano più incontri segreti loro, il fascino era sminuito. Andrea la conduceva a visitare musei, dove si conservavano antichi dipinti, come ai primi loro incontri, ma in queste passeggiate Emanuela non riusciva più a ritrovare sapore romantico. Avrebbe preferito perciò andare dove c'era gente, in luoghi mondani, ma lui scuoteva la testa. Che? Diceva, impossibile, non resisto in quei locali io, ma se vuoi. E lei lo seguiva per compiacerlo e gli scambiava questo per comune desiderio. Sei simile a me, le diceva. Non potrei vivere con un'altra donna che con te. Eppure certe volte vorrei scoprire qualcosa in te che mi piacesse meno, per tenerlo in serbo, per affrancarmi. E allora Emanuela si convinceva che al punto nel quale erano non si poteva parlare più. Avrebbe fatto meglio a partire, lasciando una lettera che dicesse: non mi domandare nulla, non mi cercare. Come si legge nei romanzi, piuttosto che distruggersi agli occhi di lui raccontando la verità, e andava pensando che alla fine avrebbe fatto così. Quella sera erano andati a passeggiare alla periferia, lungo il fiume. Adesso, di novembre, alle 7, il cielo era già stellato. Emanuela, alzando lo sguardo, esclamò, rammaricandosi: quanto tempo è che non vedo la notte altro che dai finestroni del Grimaldi. Andrea le disse: tra poco avremo tutte le notti per noi. Forse gli parlava delle stelle, forse delle notti da contemplare, ma Emanuela ebbe un fremito. Ci pensi? Insisté lui. Ci penso. Tacquero. Poi Andrea riprese: hai visto che certe volte neanche ti bacio? È perché ti desidero troppo e un bacio non m'appagherebbe. E non voglio sciupare nulla. Voglio che tu mi rimanga così, tutta ignota. Erano seduti sopra un muricciolo che bordava un prato cupo d'ombra. Un fanale ardeva su un'antenna e sembrava una gigantesca stella rossa di sangue. Andrea guardava ogni lume che s'accendeva nella folta oscurità. Vedi quel lume, lì a destra? Quello piccolo? Sì? Ebbene? Senti, e prese a parlare con dolcezza. Potrebbe essere nostro quel lume, acceso da te, il lume di una casetta che guardasse il prato. Oh, sta zitta, lasciami parlare. Mi piacerebbe abitare una casa così con te. È un sogno, lo so, ma lascia che ti dica il sogno. Una casa a un solo piano, che appena si uscisse dalla camera al mattino si avessero i piedi sull'erba. Accanto ci vorrei qualche pino. I pini a ombrello, sai, quelli marini. Lontano il mare e sul mare la luna. Ma non qualche volta, sempre la luna. Ti piacerebbe? Sì. Sta zitta, senti, per terra i mattoni rossi, quelli che lavati paiono dipinti. Pochi mobili, pochissimi, e non ci vorrei la luce elettrica. Mi piacerebbe girare per le stanze con la candela, lasciandomi cadere il buio dietro. Sì, approvò Emanuela, eccitata da quel fantastico discorrere. Sì, come al collegio, la candela che proietta sulle pareti ombre smisurate, ma lì non avrei paura, perché ci saresti tu. Soli. Egli continuò. Vicini? Nessuno. La gente passando sulla strada provinciale dovrebbe dire come noi: guarda quel lumicino! E fare tante supposizioni. E poi? Che cosa? La casa, di ancora. Ti piace? Oh sì! Penso che al mattino non si potrebbe dormire a lungo per gli strilli dei passeri sugli alberi, per quel profumo della terra che si bagna all'alba. Senti, non avremo domestici, solamente una vecchia donna, una contadina, col grembiule turchino. La donna si chiamerebbe Rosa, mettiamo, si chiamano sempre Rosa, quelle donne, così tu le diresti: senti Rosa, fa da mangiare, io stendo la tovaglia qua fuori sull'erba. Metti tutto per terra e te ne vai. Rosa forse ci prenderebbe per matti. Non credi anche tu che Rosa ci prenderebbe per matti? Si scostò per guardare Manuela, che era rimasta seria, seria e assorta. Allora Andrea rise. Ecco, so bene. Taci perché hai paura di mangiare male per terra, ti fanno ribrezzo le formiche. Rideva e quel riso cadeva addosso a Emanuela, la faceva rabbrividire. Allora lei scattò in piedi e riprese il viale. Dove vai? A cercarla. Che cosa? Quella casa. Rientrando, Emanuela si incontrò con le altre nel corridoio oscuro che conduceva al refettorio. Riconobbero la sua ombra e la chiamarono. Emanuela, Emanuela! Che c'è? Risposero tutte insieme concitatamente. Vinca! Lui si è ferito, ti cercava, devi andare da lei domani. Ferito? Fece. Non sarà morto piuttosto e le avranno detto così per prepararla? Su, da lontani ricordi, un rigurgito riaffiorava il viso di quell'ufficiale che accolse lei all'aeroporto tanti anni fa. Parlava, spiegava, diceva. E Stefano, già dal mattino, era morto. Non c'erano più gli occhi. Sarà così, insisteva. Sempre si danno queste notizie a poco, con precauzione. Restarono colpite, tutte. Valentina, che aveva visto Vinca, parlava animatamente. Oh, se fosse morto, quelle altre me lo avrebbero detto, diceva. Però veramente non siamo mai rimaste sole. Avevano certe facce devastate. Sì, se ci penso, è possibile che sia così. Oppure le altre non sanno niente e quello spagnolo, Pepe, proprio lui ha scritto così per prepararle. Certo, appena lo sa, Vinca s'ammazza. Quando s'alzarono al cenno delle suore, Anna disse: preghiamo che non sia così. Ma Augusta replicò: se è morto, ormai la preghiera non cambierebbe nulla. E mettendosi in fila, s'avviò con le altre alla cappella. Entrarono, si sparsero, si inginocchiarono. Le loro voci risuonarono tranquille, come sempre. Solo quando Suor Luisa intonò il De Profundis, le amiche di Vinca rabbrividirono. Emanuela uscì dalla casa di Vinca, che era giorno ancora. Uscì rassicurata. Vinca aveva ricevuto una nuova lettera di Pepe, una cosa di poco conto, la ferita di Luis, il braccio destro, ma niente di grave, e anzi sarebbe stato mandato in licenza a casa per un mese. Luis non poteva scrivere, ma raccomandava a Vinca di essere tranquilla. Lui stava bene, era contento di rivedere i suoi. Poiché Luis ordinava così, Vinca tentava di essere serena, di sorridere, e parlava del paese. Almeno uno di loro due tornava a casa e certo, prima che la licenza di Luis avesse termine, la guerra sarebbe finita. Lo immaginava a Cordoba adesso, lo seguiva, parlava delle case, delle strade, poi si scusava di discorrere così a lungo di cose che Manuela non conosceva. È la patria, sai, la lontananza la fa più cara. Presto anche tu ritornerai laggiù. E allora Vinca scuoteva la testa: non ci tornerò più. Lo sapevo da quando chiesi a mio padre d'andarmene. Forse anche lui lo sapeva, ma fingeva di credere che venissi qui per desiderio di studiare. E sua moglie mi ha detto: torna, sai, questa è sempre casa tua. Quel volermene rassicurare dimostrava appunto che ormai casa mia non era più. Allora era di moda venire a studiare in Italia. Sai che per me in principio fu grande fatica studiare? Sì, devi crederlo. Ero stata abbastanza ignorante fino allora. Poi intesi che in collegio e all'università mi chiamavano la spagnola. Questo senza volerlo mi irritava. È dispregiativo, scostante, come quando i francesi chiamavano Maria Antonietta l'austriaca. Vuol dire, insomma, la straniera. Mi consolai pensando che sarei stata sempre meno straniera qui che in casa di mio padre. Qui almeno non lo vedo a sbaciucchiare quella ragazza. Posso costruirmi un'immagine di lui, un papà diverso che in realtà non esiste. Ma che mi ama e desidera il mio ritorno. Fece una pausa. Adesso Luis sta a casa. Prima non mi sembrava che fosse tornata in patria. Il fronte è uguale dappertutto. E invece da stamattina non faccio che pensare alla Spagna. Siccome si commuoveva, Donna Inés disse: Vamos, vamos, non piangas per questo. Pensa che Luis no es grave e che poteva ser peggio. È vero. Cosa conta il resto?